Civiltà. Nobel per la scienza. A. Ascolta il testo. Personalità che si distinguono per ricerche, invenzioni o contributi eccezionali che apportano benefici all'umanità ricevono il premio Nobel. I premi sono assegnati ad ottobre e consegnati il 10 dicembre, anniversario della morte di Alfred Nobel, a Stoccolma. A partire dal 1901, la fondazione creata da Nobel, tramite la Reale Accademia delle Scienze di Svezia, assegna premi per la fisica, la chimica, la medicina, la letteratura e la pace. Nel 1969, la Banca di Svezia ha istituito un altro premio per le scienze economiche.